Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantaneda in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e un autunno di carestia per le nostre. 0-3 ieri in Eurolega, e a questo giro 1-6, cioè una vinta su 6 partite giocate nelle ultime due. A questo punto Cantù che deve tenere il fattore campo, Milano appesa a un filo e Siena che passerà il turno, però non è più un fortino inespugnabile. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao Carlo, ciao, amici sportivi di Radio 24, buongiorno a tutti. E anche a mio ospite di oggi, che è uno dei più bravi e preparati dirigenti del basket italiano. Gian Maria. Buongiorno. Ma Gian Maria, ma non è. Ma Gianmarì, aspetta che arrivo. Ma te faccio vedere, io te faccio. Vorrei sapere come te permetti di parlare con un'altra donna. Gianmaria Vacirca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio coach. Ha riconosciuto il film. Buongiorno a tutti. Non ho riconosciuto il film, però poteva essere una qualsiasi donna di Montegranaro che ancora mi cercava. Tra un po' ti dico che film era. Allora coach, autunno di carestia, partiamo da lì. Milano che perde sul campo, lì sì, inespugnabile al momento, del Maccabi 85-76. Cantù che perde a Nancy, ma salvaguarda la differenza canestri con i francesi che praticamente non hanno battuto un cancellato dalla difesa canturina, 76-75, e Siena che cade in casa, settimana grigia, no, grigia, nera. Yeah, ovviamente, e penso che la cosa che certamente sta fa loro stare senza dormire è il fatto che tutte le tre partite si poteva vincere, cioè proprio assolutamente ci poteva. Cantù aveva perso per un solo punto, tanto per dire, ci sono tanti episodi nelle partite così. Noi eravamo a Siena per Sport Italia, sono partite 12-4, anche meno 2 con nell'ultimo minuto di gioco, tanto per dire, quindi e poi Milano ovviamente aveva una sola possibilità quando sono arrivati a meno 3 con palla in mano. Poi c'è stata la palla persa, contropiedi loro, Tappin su un tiro sbagliato, anziché arrivare a meno 1 e mettere Maccabi in crisi, sono tornati a meno 5, quindi magari Milano ha avuto una sola opportunità, però a Tel Aviv ti danno una sola opportunità e deve avere la bravura, la fortuna di acchiappare, come si dice, con l'occasione. Milano non è riuscito a fare, però non ha giocato una brutta partita, hanno cominciato a tirare da tre, ma la cosa che certamente è preoccupante per Sergio Scariolo, l'allenatore di Milano, è la questione dei rimbalzi. Sono stati veramente, penso che sia stato 41-22 a favore del Maccabi Tel Aviv nei rimbalzi, compresi diversi, tipo 16 rimbalzi in attacco. Sì. E certamente questa è una grande preoccupazione per Milano. Milano distrutti in attacco. Gianmaria, che idea ti sei fatto di questo momento di Milano? Di questo momento di Milano le idee sono tante e onestamente anche un po' confuse. Io credo che, essendo anche tutto molto nuovo, una squadra rifatta quasi da capo, poi c'è questa presenza di Gallinari che non sappiamo ancora quanto rimanga, ecco, è un progetto che ha senz'altro bisogno di tempo, e l'Eurolega questo tempo difficilmente riesce a concederlo, mentre nel campionato magari puoi, come dire, avere dei passaggi a vuoto che poi non contano tanto alla fine. Ecco, l'Eurolega e soprattutto il girone che ha Milano, con squadre molto rodate, con squadre molto preparate, lì diventa molto più dura. Sì, Milano con molti dubbi sotto la cenere della vittoria su Siena, che è stato il momento più alto fin qui della stagione, che forse qualcuno aveva illuso, questo non lo so, però mi sembra abbastanza evidente il problema. Nicolas Scariolo lo ha affrontato dicendo: stiamo facendo di tutto per metterlo in squadra, per inserirlo in questa squadra, però anche lui, che è un giocatore di grande esperienza, deve darsi un po' una mano da solo, coach. Well, è chiaro che è un momento veramente di difficoltà, ieri a 0 punti, tanto per dire, però Scariolo ha delle opzioni che può fare. Ad esempio, ieri sera nel terzo quarto partite con Hairston nel ruolo di Nicholas come guardia, tanto per dire, anche se Hairston non è esattamente una guardia. Poi c'è Danilo in campo che è tremendamente versatile, che potrebbe anche giocare nel ruolo di guardia. Non sto spacciando come guardia, sì, è chiaro, ok, però un attacco con un playmaker e quattro, due esterni, diciamo Hairston e Gallo, e due interni, Mancinelli e un altro, Fosses, chi sia, Porusses, c'è sempre possibilità per Scariolo, okay? Quindi soluzioni immediate ce ne sono, penso che lui sta cercando questo qui, ieri sera proprio all'intervallo ha fatto questo cambio. È chiaro che Nicolas, che è un giocatore di sicuro rendimento per quanto riguarda il tiro, lo è sempre stato, deve anche lui mettere la sua parte, e certamente si sta mettendo tutto lui per i risultati. Ancora non l'abbiamo visti. No, certo, ieri virgola con due tiri, zero punti con due soli tiri dal campo, uno da due, uno da tre. Questo giocatore non solo non fa canestro, ma si prende anche pochissime responsabilità offensive al momento. Il male di Siena invece secondo te qual è? Perché per Milano forse è più facile individuarli, per Siena invece cosa sta succedendo? Questa sconfitta con Kazan in casa, in attesa, magari anche in dolore se vogliamo, perché Siena comunque non è in dubbio ovviamente per il passaggio del turno, però non è una squadra che sta bene. Stai chiedendo a me? Sì, coach. Yeah, well, Siena, io piuttosto riguardo questo come un episodio isolato, nel senso che Siena è andato 12-4 con il quintetto base in campo, poi cosa è successo? Due falli Moss, due falli Kaukenes, due falli Stonerock al quinto minuto, cioè bonus per l'altra squadra, tre giocatori del quintetto base fuori, soprattutto Stonerock che è il faro della squadra sia in attacco che in difesa, 9-0 per Kazan, da 12-4 per Siena, 12-13 a favore di Kazan, e lì hanno riaperto la partita. Poi veramente ho fatto una partita, cioè proprio un giocatore che non aveva mai fatto più di 11 punti in Eurolega, è stato veramente lui contro Siena, come Schwarzenegger contro Milano, cioè proprio non c'era una persona in grado di marcarlo, ha fatto veramente i bambini con i baffi, ha preso sì. 6-7 rimbalzi in attacco, e Somalienko, il piccolo playmaker, veterano, 34 anni, grande partita. Don McKenzie si è visto, Lingrier ha fatto anche la sua parte, quindi con gli uomini contati, perché non c'era McCarthy e non c'era Jawai, loro hanno Patuscini è stato bravissimo a ruotare i giocatori, hanno trovato la soluzione giusta, però non perché Siena sia in una crisi, un momento di vicenda, cioè Siena è sempre Siena, okay? Sì. E avevano anche loro, come detto, l'ultimo minuto di gioco, meno due, la possibilità di vincere lo stesso, sì, pur non essendo in serata. Quindi io lo dico, episodio proprio a parte da tutto il resto, non da trarre grandi conclusioni. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Arrivederci coach. 800240024, numero verde per intervenire, poi ci sono Facebook e Twitter, soliti contatti, e ci sono anche i messaggi, ne ho già molti, 349-238-6666. Allora, Gianmaria Vacerca, il film era Quella peste di Pierina, real trash degli anni 80, giusto? Vabbè, per chiarire, un cinefilo come te mi si addice abbastanza. Poi parliamo di Montegranaro, della tua ultima avventura a Montegranaro, una squadra che insomma pronosticata da molti, me compreso, come mina vagante da quartieri alti, che sta avendo molte difficoltà. Però resterei su, a proposito della sfiga di trovare giocatori in stato di grazia da Skorzanidis, ad Amagù ieri per Cantù, che entra da panchina, ne fa 18, 3 su 5, 3 su 3 da 3 punti, e ciao Cantù. C'è un ascoltatore che scrive: ma perché Cantù non ha tirato da 3 nell'ultimo possesso? Avevano paura di perdere l'overtime di 12, scelta discutibile. Trinchieri ha fatto i conti e ha detto: molti giocatori in panchina per falli, salvaguardo differenza canestri, se poi vado a supplementare ne becco 12... Mi scavo la fossa da solo. Sì, può anche essere quello, anche se poi in certe situazioni di partite, poi a quel livello, tante volte si fanno i conti, ma poi tante volte anche le cose vengono così, non dico per caso, ma quasi. Quindi alla fine Cantù ha avuto tante occasioni per vincere questa partita prima, purtroppo non le ha sfruttate, però insomma concediamo alla Bennett anche il noviziato in questa grande competizione. C'è anche Pietro che scrive: basta buttare i soldi Armani, assumi Arrigoni e costruisci un serio progetto. Questo mi sembra un progetto serio guidato da Scariolo, certamente il più convincente degli ultimi anni. Palla spicchi. Allora, eccoci tornati, con me Gianmaria Vacerca. Di che cosa vuoi parlare? Carlo, fai tu. Faccio io. Allora parliamo di Roma, che ingaggia Tariqi Evans, altra superstar NBA, continua la diaspora dal campionato, che non c'è in questo momento. Adesso arriva questa stella a illuminare Roma, MVP dei rookie 2 anni fa, insomma giocatore con cifre importantissime a Sacramento. Roma che rialza la testa, prende anche mordente, e chissà che non riescano a riempire il palazzetto di Viale Tiziano, naturalmente. Sì, c'è anche mordente, quindi salutiamo con grande gioia il ritorno al campionato di quello che è il capitano della nazionale italiana. Quindi due operazioni, entrambe due operazioni a tempo, perché comunque Evans dipende anche molto da quando si decideranno a giocare o a quando si decideranno a non giocare più. E Mordente inizia con un contratto a tempo, ma sono certo che inizierà bene e finirà benissimo la stagione con Roma. Non parlate del vero fuori classe miglior giocatore della Serie A, forse d'Europa, Von Wafer. L'avresti preso? Von Wafer è un attaccante fantastico. È stato anche uno dei, diciamo, motivi, almeno così si diceva, dei dissidi tra il coach Mauric e la proprietà di Cremona. Quindi questi erano un po' i rumors. È chiaro che poter allenare un attaccante come Wafer è una cosa veramente elettrizzante. Da un altro punto di vista ha bisogno di un supporting cast che sono certo Attilio Caia saprà costruirgli al meglio. Adesso faranno anche un altro cambiamento, è arrivato Roderick al posto di Brandon Thomas, un giocatore che Attilio ha lanciato a Rimini l'anno scorso, quindi una bella coppia. È arrivato anche Cacchiusis, uno fresco. Beh, uno fresco, però alla fine i veterani hanno sempre questa classe, capacità di giocare. Cacchiusi già l'esordio, 10 punti subito e 2 punti esterni a Teramo, che era un campo difficile da espugnare. Poi sembra un po' il bis della mossa che fece 3 anni fa con Milic, pescato dal dimenticatoio e poi diventato praticamente il simbolo di Cremona. Sì, perché Milic è stato un giocatore molto bravo a riconvertirsi, un'ala piccola che adesso gioca stabilmente centro, stabilmente dentro l'area, quasi sempre in doppia-doppia per punti e rimbalzi. È un giocatore che è stato capace a costruirsi una seconda carriera in un ruolo completamente diverso. Ci ricordiamo il Milic che saltava l'automobile, adesso abbiamo un Milic centro bonsai. Senti Gianmaria, qualche ascoltatore ci invita a ritornare sull'argomento, come Francesco da Pistoia. Secondo me Peterson è stato troppo buono per Siena, Storuk e Kaukenas alla frutta. Insomma, il mio pensiero, l'ho già detto molte volte, è che ci siano segnali di fine ciclo per Siena nei suoi giocatori simbolo, ma nessuno è eterno, e credo che davvero Siena sia il momento della, sempre una super squadra, ma al momento del ricambio generazionale. Mi viene un po' da fare il parallelo, e l'ho già fatto, anche questo non è inedito, con l'Inter va molto peggio di Siena e non arriverà nemmeno a lottare per lo scudetto. Siena magari questo scudetto lo vince ancora, però è chiaramente una squadra che ha bisogno del ricambio generazionale. Beh, io penso che alle scorse finali di Eurolega tutti quanti fossimo lì a soffiare perché Siena vincesse, perché c'era un po' la percezione che per quel gruppo di giocatori fosse quasi l'ultima chiamata, quantomeno a quel livello. Quindi l'ultima o forse la penultima occasione buona per aggiudicarsi un trofeo che gente come Stonerhoek, come Kaukenas, come Lavrinovic si meritano. È evidente che prima o poi i cicli finiscono, prima o poi si arriva. Però sono convinto che avranno ancora tante cose da dire, soprattutto nel campionato, dove sarà molto difficile batterli anche quest'anno. Allora, avviso ai naviganti e ai messaggianti, domani parleremo anche di rugby, della partita della Benetton, parleremo dell'Ital Volley che oggi ha battuto gli Stati Uniti e sta andando molto bene ai mondiali. Tra l'altro ne parleremo con chi la sta commentando per Sky, con Andrea Zorzi, che domani torna su questi schermi, ma oggi è il giorno del basket, quindi di basket parleremo. 800 24 00 24 è il numero verde. Tornando invece a Milano, che cosa non funziona secondo te in questa squadra? Perché è chiaro che una squadra di questo tipo, che per come è stata costruita, non può rischiare di stare fuori dopo il primo turno di Eurolega, sarebbe un fallimento molto pesante questo ed è inutile nasconderlo. Una squadra che stacca la spina e si fa battere dal Partizan di Belgrado, riducendosi appunto a dover giocare una serie di partite con le spalle al muro. Sono solo problemi di crescita o di amalgama che non si compra al supermercato, come si diceva, oppure c'è qualcosa di strutturale che non funziona? Ma io non penso che sia totalmente una questione di struttura. Diciamo che vincere a Tel Aviv è un'impresa, soprattutto in questi ultimi periodi di Eurolega, quasi proibitiva per chiunque. Se vogliamo parlare della squadra di Milano, andando a rovistare un po' dentro, possiamo parlare di due situazioni un po' deficitarie. Avete già parlato dell'apporto di Drew Nicholas, e poi Radosevic è più indietro di quello che pensavano. Secondo me ieri sera ha fatto molta fatica nei minuti in cui è stato in campo. Ecco, probabilmente loro stanno aspettando Radosevic a un livello più alto, e probabilmente se lo aspettavano già un po' più avanti, invece il ragazzo che è molto giovane e molto promettente sta un po' faticando. Bisogna capire adesso se loro continueranno nel processo di attesa di questo giocatore che senz'altro diventerà un big a livello europeo, oppure se cominceranno a pensare lì sotto a mettere qualcuno che possa ogni tanto contenere Skorzanidis, perché ricordiamoci che Borussis, come giustamente diceva Scariolo all'inizio anno, non era il centro titolare dell'Olympiakos, ma era comunque un importante giocatore, sì, dentro una rotazione molto ampia. E adesso che senso ha allora prendere un playmaker, come si dice, Gerard Bremer? Ma secondo, io aspetterei a vedere se prenderanno un playmaker. Penso che le valutazioni nei grandi club durano molto di più che nei medi e nei piccoli club. Questa è una grande differenza. Un medio piccolo club deve sbrigarsi e decidere per mettere un po' a posto la rotta della nave. Un grande club può prendersi il suo tempo e vedere il mercato cosa offre. Senti, parliamo allora del club che hai da poco lasciato, cioè Montegranaro. Hai fatto stagioni splendide a Capo d'Orlando e poi lì a Montegranaro. Quest'anno evidentemente qualcosa non ha funzionato per il verso giusto, è stata la necessità di cambiare. Tu hai lasciato il tuo incarico di general manager, è stato cambiato allenatore ed è arrivato Valli, non sono arrivate le vittorie. L'ultima, la sconfitta contro la Virtus in casa davanti a un pubblico, anche questo è un dato da spiegare, un pubblico pazzesco per Ancona, oltre 4200 spettatori per questa squadra che non è nemmeno la loro. Ci racconti com'è Montegranaro e cosa succede a Montegranaro per una squadra che, da tutti me compreso, all'inizio si diceva è la squadra tra tolte le big più interessante del nostro campionato? Beh, è il classico esempio di come i nomi e le carriere non facciano quantomeno ancora una squadra. È chiaro che poi nel processo di costruzione ci sono stati vari intoppi, penso soprattutto all'infortunio di Sosa, che noi abbiamo perso a 18 secondi dalla fine di una gara tra Panama e Repubblica Dominicana, che la Repubblica Dominicana vinceva di 30, quindi quando il destino veramente è beffardo nei confronti di un giocatore e di una scelta. Però tante volte in questo mestiere si è fortunati in tante situazioni, altre volte si è sfortunati, e quindi fortuna e sfortuna non vanno mai chiamati in causa. È una cosa che non funzionava, e quindi era giusto dare alla società, che è una grande società fatta di persone strepitose, il tempo e il modo di cambiare. Hanno scelto di cambiare successivamente l'allenatore, hanno chiamato un bravo tecnico come Giorgio Valli, che ha un lungo rapporto, una lunga esperienza con il mio successore Sandro Crovetti, e penso e spero che la squadra possa in qualche modo reagire a un momento di difficoltà e centrare i risultati che tutti quanti si aspettano, anche i nuovi tifosi, che insieme a quelli di Montegranaro creano veramente a Pallorossini un colpo d'occhio straordinario. Sì, è un campionato strano, è questo, Gianmaria, è un campionato in cui ci sono molte squadre in altalena, molte squadre che infilano filotti di vittorie e poi perdono la partita fortissimo Caserta, poi è stata la volta di Avellino che giocava una palla molto spettacolare. Poi, beh, Venezia, mi pare, come sottolineano i nostri amici ascoltatori via SMS. A proposito, voglio sentire la vostra voce, 800240024, intanto leggo molti dei vostri SMS. C'è Venezia, che è indubbiamente la grande sorpresa di questo campionato, no? Pescato la settimana prima, senti, vieni qui a giocare, Venezia arriva e comincia a vincere. Ma sai, mi sembra di poterti dire che è un campionato dove funzionano tantissimo i veterani della Lega, cioè i giocatori che conoscono molto bene il campionato. Alvin Young, che è diciamo un veteranissimo di questa Lega, domenica scorsa protagonista con oltre 20 punti in una bellissima vittoria. Penso a Diego Faardo, che con Varese continua a spiegarlo un po' a tutti sotto canestro, mentre invece i giovani esordienti o quasi stanno facendo un sacco di fatica. A Montegranaro c'è un esempio chiaro con McNeil, c'è l'esempio di Benson con Sassari, che è stato cambiato dopo pochissime giornate, seconda scelta, ed è un giocatore che non si è adattato. Penso alla guardia di Varese, Justin Hart, che sta faticando e si pensa lo possono cambiare. Questo è un po' un dato di fatto. Poi è chiaro che c'è un equilibrio clamoroso, e che il momento di forma in cui incontri l'avversario è molto spesso una discriminante fondamentale nel vincere o nel perdere. Sì. E questo è evidente. Non ci sono squadre scarse, assolutamente, che sono tutte squadre buone. Anche Teramo adesso si è rinforzata cambiando Wanamaker, che era già un cambio di Trey Johnson, quindi insomma tutti si muovono e tutti stanno cercando di rimettere un po' la nave sulla direzione giusta. C'è stata anche la prima storica vittoria di Casale Monferrato ad Avellino, e quindi sono tutti lì sulla stessa linea. Beh, Casale con Mustafa Shakur che arriva, scende dall'aereo e fa 30 punti. Fa 30. Ricordando un episodio, mi ha fatto tornare in mente un episodio di penso 10 anni fa, quando arrivò a Varese Tyron Nesby, sì, che era un'ala piccola, molto talentuosa, ma anche abbastanza folle. Che mi ricordo, arrivò a Varese, lo tesserarono, fece un allenamento e fece 32 punti all'esordio contro Napoli. E Shakur, che non è conosciuto come un grandissimo realizzatore, ma come un giocatore di grandissimo talento, un passatore da visioni sublimi, Avellino, 30 punti subito, complimenti. Senza sbagliare mai, tra l'altro. Senza sbagliare mai. Palla spicchi. Dunque, ecco quelli che faranno sentire la loro voce: Carlo da Torino e Stefano da Milano, premi 2 di oggi, 800 24 00 24. Qui vicino a me Gianmaria Vacirca, mio amico di vecchia data e dirigente importante, al momento in cerca di idee, nuove sfide. Sì, bisogna allargare le frontiere e esplorare nuovi orizzonti. Senti, prima di sentire, di parlare con gli ascoltatori, visto che a microfoni spenti rendiamo pubblico quanto stavamo dicendo, magari non tutto, però parlavamo di Casale Monferrato e ho detto, se vuoi te ne racconto una divertente di Chiotti, che è un giocatore che nella crisi, nell'emergenza in cui si è trovata Casale per infortuni e problemi vari, ha avuto e sta avendo un rendimento pazzesco. È un giocatore, sì, pazzesco, un po'. È un giocatore, sì, perché devi sapere che anni fa c'erano due bravissimi allenatori, che sono Breveglieri e Teglia, che facevano una guida di scouting sul college basket, in cui c'era anche una sezione dedicata ai giocatori passaportabili. E allora cominciai a seguire, grazie a questa guida, David Chiotti, che giocava a New Mexico University, e a fine stagione lo cercai a casa, perché non c'era nessun tipo di... Per Castelletto Ticino. Lo cercai a casa, mi rispose la madre, mi dice, ma no, mio figlio non giocherà più a pallacanestro, farà un altro lavoro, quindi è inutile che lo cerchi. Poi dopo 5 mesi, 6 mesi, probabilmente cambiò idea e andò a giocare in Austria, dove fece la sua prima apparizione europea. Da lì una lunga trafila per ottenere la giusta cittadinanza italiana, e vederlo volare nel campionato italiano mi dà veramente una grandissima gioia, perché è uno di quei giocatori che piacciono a me, i blue collar guys, quelli che badano le cose di sostanza, di cui ti puoi fidare sempre. Chissà cosa dice la mamma, La mamma sarà orgogliosissima. Si è aggiunta anche Paolo da Biella alla lista. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Io, in merito ai problemi di Milano che avete già sottolineato, Radosevic e Nicolas, volevo chiedervi, ma non è che c'è anche un problema Giachetti? Perché anche ieri in 3 minuti ha fatto più danni della grandine, e non sembra si stia rivelando comunque il backup di Cook che Milano si aspetterebbe, e che comunque è una squadra che vuole disputare una stagione importante in Eurolega, insomma ci si attende sicuramente di più. Ieri che in 3 minuti è stato abbastanza disastroso, non so se sia il fatto che non si sia ancora completamente ripreso dal grave infortunio della Carlo scorso. È anche vero che giocare 3 minuti non è mica semplice. La mia perplessità non è su Giacchetti, guarda, le dico subito, poi sentiamo Gianmaria cosa da dire, ma la mia perplessità non è su Giachetti in valore assoluto, perché è un giocatore che conosciamo benissimo e di una affidabilità assoluta. Io lo prenderei subito come cambio di playmaker. Bisogna vedere la mescola tra il playmaker titolare e quello che esce dalla panchina, e non mi sembra, questo può essere il discorso, la più corretta tra Cook e Giachetti. Mi sembrano due giocatori poco complementari, cioè mi sembrano due giocatori abbastanza simili, o no, Gianmaria? Ma guarda, vi faccio 3 esempi di 3 diverse tipologie di scelta. Siena da anni va con 2 playmaker di altissimo livello. Prima McIntyre Zizis, adesso abbiamo McCaleb Zizis, quindi lì ha puntato tantissimo. Cantù quest'anno ha fatto una scelta completamente alternativa, ha puntato su un giovane italiano come Cinciarini, e praticamente dietro nessuno, o quasi nessuno, perché o se la gioca Basile o se la gioca Mitzov nella posizione di point forward. Milano con Giachetti e Cook, e con altri giocatori che comunque possono aiutare a portare la palla, secondo me ha fatto una scelta che poteva fare. Poi è chiaro che nella mescola complessiva può anche essere che al massimo livello europeo possa servire un doppio playmaker straniero, ma sono tutte opinioni e non certezze. Stefano, Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire sempre sulla questione Milano, e il mio commento: sono tifoso da Milano ovviamente dagli anni 80, e lì è rimasta la tifoseria adesso c'è un po' più di affezione per il buon basket e sinceramente se ne vede poco. Riguardo Milano volevo solo fare un commento non tanto sullo stato di forma dei giocatori, che insomma penso che più o meno uniformemente sono un po' tutti indietro, ma ancora una volta sul discorso del gioco, perché rispetto, e prendo come esempio Cantù, che evidentemente ha una somma di talenti molto più bassa secondo me di Milano, e con gli stessi problemi di avvio, cioè di mettere insieme un'amalgama un po' differente, alla fine ad oggi, dopo una serie di partite, dopo 2 mesi che si gioca, secondo me Milano non esprime un gioco fluido, li vedo palleggiare molto, li vedo passarsela molto quando sono in una fase quasi di disperazione, magari non alla persona giusta, perché ieri sera c'è un Nicolas che non la dava a Gallinari quando la doveva dare verso la fine. Sì. E quindi manca un po' di gioco. Poi certo, magari qualche partita la vincono perché i fenomeni ce li hanno e la palla ogni tanto la buttano anche dentro. Sì. Beh, però Stefano, però tutti quanti, sì. posso dire che mi sembra ingeneroso addirittura il parallelo tra Milano e Cantù. Cantù è una squadra che lavora insieme da 3 stagioni abbondanti, e quindi non mi sembra il termine di paragone giusto. Questa squadra lavora da tre mesi, è chiaro che la qualità che esprime non è eccezionale. Io credo però che il materiale possa far diventare questa squadra una squadra da corsa, almeno per il campionato italiano certamente, già da quest'anno. Gianmaria. Assolutamente sì, hai fatto riferimento ai 3 mesi, non dimentichiamoci che col capo allenatore sono 1 mese e mezzo, perché poi Sergio Scariolo ha trionfato ancora una volta con la nazionale spagnola e si è aggregato una volta terminata la competizione continentale, quindi insomma tempo a Milano assolutamente. A proposito di nazionali, en passant, come la vedi la questione della nazionale italiana? Pianigiani, che una settimana fa ha detto sciolgo le riserve, resto alla guida di questa squadra, servono alcune della nazionale naturalmente, servono alcuni correttivi, magari dei collegiali, magari più amichevoli da giocare all'estero, un serbatoio più profondo di giocatori da cui attingere, eccetera, eccetera, eccetera. Questione nazionale, il tuo pensiero qual è? Ma il mio pensiero è un po' controcorrente. Io agli ultimi europei ho visto comunque una nazionale che se l'è giocata fino all'ultimo possesso con la Francia, che poi abbiamo ritrovato in finale. Forse basandosi un po' troppo sul talento dei 3 NBA... ma il materiale per lavorare c'è, l'allenatore è di altissimo livello e abbiamo almeno un paio di giocatori, uno su tutti Alessandro Gentile, che secondo me vuole buttare dentro. Il problema tecnico, Carlo, è che poi quelli buoni sono tutti coloro lì, nel 3 e mezzo. Abbiamo un esubero di giocatori nella posizione di ala e ci manca il playmaker alla guardia, quindi se c'è la possibilità di naturalizzare Diener o Diener all'italiana, sbrighiamoci. No, lo penso anch'io, secondo me l'errore capitale è stato quello di dare carta bianca, quantomeno di appoggiarsi integralmente sui 3 ragazzi americani, e questo ha un po' deresponsabilizzato tutti gli altri. Anche lì forse c'è stato un problema di chimica, come per Milano, in termini differenti. Invece una domanda che mi viene così, no, sentiamo Paolo da Biella e poi ti chiedo di... Adesso arriva Tariqi Evans, arriverà forse la Marodom in Turchia, sempre che l'NBA non inizi. Secondo te inizia? Secondo me inizia, sì. Secondo te inizia? Sì. Bah, sei forse l'unico in Europa a pensarlo inizia, oggi. Inizia. Però... misteriosamente Bargnani e Berinelli, voi a Montegranaro l'avete cercato Bargnani, avete provato a fargli firmare un contratto, avete provato, ma è stata un'operazione guidata dal main sponsor, che fondamentalmente ha cercato di un'operazione importante commerciale con Bargnani per l'esplorazione di nuovi mercati per le scarpe in Canada e Stati Uniti, quindi di pallacanestro ce n'era onestamente poca. Però Bargnani e Berinelli non sono così ricercati, questo è strano, no? Perché si è parlato di Bargnani a Siena, Berinelli l'altro giorno ho letto 2 righe, diceva ho 3-4 offerte, non si capiva bene dove. Come mai secondo te? Sono qui, non giocano. Ma guarda, il discorso assicurativo per Bargnani è stato un discorso, come dire, sviscerato in tutte le maniere, anche perché il papà di Andrea ha un background nel campo, quindi ben si intende di assicurazioni, e trovare una formula assicurativa che ti garantisca il 100% non infortunio è assolutamente impossibile. Quindi questo secondo me è stato un ostacolo allo sviluppo di una situazione di questo tipo. Poi c'è il fatto di dire: ma io allenatore, ma io presidente, benissimo, prendo un giocatore NBA, fra due mesi va a casa e poi cosa mi resta, punto di domanda. Ed è un ragionamento che fanno sia i grandi club che i piccoli club, con poche eccezioni, quella di Danilo Gallinari a Milano, che è stata un'operazione utile per tutti, sia per l'affezione che Gallinari ha nei confronti dell'Olimpia, l'amore dei tifosi per lui e l'indubbio vantaggio che ha dato e sta cercando di dare alla squadra sia in campionato che in Eurolega. Paolo da Biella, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'attenzione. Grazie. Vorrei spostare, se permettete un istante, il focus proprio qua su Biella. Sì. Qui si lavora con Angelico Biella in maniera molto professionale, molto, posso dire anche prudente, molto saggia, con una politica sempre di valorizzazione dei giovani estremamente, secondo me, produttiva. E la mia domanda per voi è questa: io ho visto un inizio di stagione decisamente promettente, perché c'è un ingrediente di questa squadra, di questo Angelico Biella, che è sempre molto entusiasmante, che è davvero il coraggio. A un certo momento durante le partite scatta sempre qualcosa e magari a volte si raggiunge l'obiettivo, altre volte no, però effettivamente è sempre un grandissimo spettacolo. Secondo voi dove può arrivare Angelico Biella quest'anno? Insomma, Angelico Biella è una squadra che io e te, Gianmaria, seguiamo da molti anni. Per via siamo nati con la fila Biella. La fila Biella. Guarda, Paolo, io credo che intanto questo nei cicli di Biella è l'anno buono, perché Biella fa una grandissima stagione, soffre per due anni e poi ha un anno di grandissimi risultati. Ci sono da dire tre cose su Biella molto rapide. La prima, pazienza. L'anno scorso coach Cancellieri ha perso 8 partite consecutive, nessuno l'ha mai messa in discussione. L'ha trovata sul mercato, fuori Slaughter, dentro l'americano che c'è ancora adesso, cioè Aubrey Coleman, con la quale hanno sempre vinto. Seconda, un ambiente fatto apposta per i giovani giocatori americani. Chissà perché a Biella i rookie funzionano sempre, da altre parti funzionano ormai quasi mai. Pullen, grandissimo talento, grandissimo realizzatore, è arrivato a Biella e sembra un veterano del campionato. Terzo, l'empatia con la gente. C'è un legame, una cosa unica che a Biella è squadra e pubblico, e che avverti durante le partite. Quando Biella inizia una rimonta, raramente non la completa. Ho detto molte volte, è l'isola che non c'è Biella. Cioè ci sono tutti gli elementi, saggezza, competenza, palazzetto. Ci fosse pubblico. Anche il mare, Carlo, sarebbe. Ci fosse anche, ci sono le montagne lì dietro, se vogliamo accontentarci. Ci fosse anche il mare. Palla spicchi. Caro Gianmaria, c'è Marco da Mestre che subito scrive: noi ce l'abbiamo il mare, fosse per questo che abbiamo vinto domenica scorsa a Biella. Ha vinto a Biella perché Venezia è una squadra on fire, l'abbiamo già detto. Venezia, squadra infuocatissima, molto profonda, con tantissimi giocatori, uno zoccolo duro dell'anno scorso, un bravissimo allenatore come Mazzone, e poi hai voglia di mettere dentro Shevchik e Bowers. Dentro un motore rodato, giocatori di altissimo profilo. Mi spiace per il messaggio di Gianni invece, che è un po' triste. Avete goduto delle disgrazie di Basket City, bene, adesso godiamo noi a Bologna della mediocrità del basket in Italia. Questo è un messaggio che non mi piace, ma lo leggo lo stesso per rispondere. Non credo che ci sia stato molto godimento delle disgrazie di Basket City, anzi il valore aggiunto che può dare il Bologna con due squadre, il derby di Bologna, la passione di Bologna, è qualcosa di importante per tutto il basket italiano e non solo per quelli che lì vivono e fanno il tifo. C'è Max da Treviso che chiede un commento sul suo amico Djordjevic, che si fa espellere in Eurocup per motivare questa triste ultima versione della Benetton. Sasha Djordjevic resta mio amico, si è fatto espellere in un momento particolare della partita e secondo me con la squadra che ha sta anche facendo bene. Sta facendo un ottimo lavoro, ha una squadra piena di giovani e sono dei giovani da lanciare nel panorama non solamente italiano ma nel panorama europeo. Valutiamolo con della sostanza di risultati che senz'altro arriveranno, perché comunque la squadra è una squadra interessante e ha questa coppia di lunghi abbastanza tipici, Scalabrini e Jeff Adrien, che mi piace tantissimo. Bravo Scalabrini, che guadagniamo un sacco di soldi a Boston per sventolare l'asciugamano in borghese, è arrivato qui ma... è arrivato in prova, In prova. Dall'idea della caratura della persona, perché è arrivato in prova. È veramente il leader di quello spogliatoio, quello che... Giocatore fantastico. Che prenderesti subito. Subito. Senti, invece, questa storia dell'NBA che non comincia, ma secondo te comincia, allora non ci prepariamo allo sbarco di Lamarodome e di molti altri talenti? Sono i due Gasol che sono lì a Barcellona che dicono: se non si comincia, noi mettiamo una maglia blaugrana. Ce ne sono molti altri che potrebbero arrivare. C'è Roma che ha una superstar tra le mani. Metti che domani escono a dire l'NBA comincia, finirebbe un po' come la storia di Bryant a Bologna. Ma io credo che i veri protagonisti di questa vicenda siano quelli nascosti, cioè gli agenti. E nel momento in cui si arriva al dentro o fuori, si alza inevitabilmente la pressione su Stern e sui proprietari, quindi rumors, voci, giocatori che firmano, giocatori che partono, eccetera. Io credo che faccia tutta parte di una, passatemi il termine non proprio appropriato, strategia della tensione che gli agenti stanno mettendo sulla Lega. Invece c'è un altro giocatore che è partito e non tornerà, proprio vincendo ad Ancona sul campo della tua ex squadra, Terrell McIntyre. Finale di carriera molto triste, perché non può che essere triste per un giocatore così, un po' cinematografico, con i canestri della vittoria bolognese, per poi salutare tutti e dire: non posso più giocare. Beh, c'erano 4.200 persone domenica scorsa che gli chiedevano: senti, ma non potevi ritirarti due giorni prima, che noi avremmo vinto un'altra partita? No, adesso scherzi a parte, anche per sdrammatizzare, McIntyre è stato, penso per 7 anni, 8 anni in Italia, il playmaker. È stato fantastico a tutti i livelli. Ricordiamo che trascinò Capo d'Orlando una promozione dalla Lega 2 alla Serie A con il record assoluto di punti, penso ineguagliabile, sì, per una squadra di Lega 2. Detiene il record di triple segnati in una partita stabilito con Reggio Emilia. È un giocatore che si è fatto in Lega 2. Capo d'Orlando, Ferrara, è arrivato a Reggio Emilia, è arrivato a Siena. Cosa dire di più? Incredibile. Invece, cosa stai trovando di nuovo in questo campionato? Tu dicevi prima, è un campionato in cui sono i veteranissimi quelli, i padroni del gioco, ma stai vedendo qualcosa di interessante in giro, qualcosa che ti piace, qualche giocatore o qualche squadra che ti intriga, che ti solletica la fantasia? Guarda, mi solletica la fantasia Cantù, perché comunque è una squadra che ha fatto una scelta, lo dicevamo prima, estrema in un ruolo chiave come quello del playmaker, e cioè dando fiducia a un ragazzo come Cinciarini, che arrivava da anni di backup fondamentalmente. È stato il backup di Maestranzi per 2 stagioni, e l'anno prima era a Pavia in Lega 2 e ce lo ricordiamo tutti. Quindi Cantù è la squadra che come sempre mi dà quella voglia di andare a scoprire. Poi c'è questo Laiti, che è un giocatore che ad alcuni piace, ad altri no. Prima leggevo un messaggio di un ascoltatore che diceva: con questo dove andiamo? Ma io non sono così d'accordo. Penso che nel ruolo di guardia difficilmente si possa trovare un fisico, un atletismo così esplosivo come quello di David Laiti, ecco. Quindi pazienza, a meno che poi le scelte di mercato dovute anche all'infortunio di Šekić, che è una brutta tegola per la Bennett, perché comunque Šekić è un mestierante di quelli giusti, che in Europa i 6-8 punti li ruba sempre, che sì sono mancati, a meno che la scelta poi non sia in controtendenza e Cantù continui a cercare un piccolo anziché un lungo. Tra l'altro a Nancy, dove hanno praticamente imbavagliato una superstar NBA come Batum, che ieri sembrava il ragazzino della panchina, 4 punti e impalpabile sul campo. Cantù è grande anche per questo, Gianmaria. Se riesci comunque con la difesa di Marco Spili, di Lune, eccetera, a imbavagliare un giocatore di questo tipo, a battezzare un giocatore di questo tipo, beh, poi ti rimane ancora più l'amaro in bocca per una vittoria che è scappata via e per un cammino di Eurolega che a questo punto non semplice, diventa difficile. Non semplice. E diciamo un'altra cosa, che Cantù comunque è insieme alla Sutor un'altra grande novità del basket italiano, perché ha portato l'Eurolega al Paladesio. Sì. Il Paladesio, un impianto che da 10 anni, 11 anni totalmente abbandonato a se stesso, si diceva qualche anno fa che potesse diventare una moschea, adesso ospita gare di Eurolega con 5.500 spettatori, 6.000 spettatori. Pensiamo a quanti potenziali tifosi e quanti potenziali ricavi potrebbe fare Cantù in quel palazzo approdando le top 16. Quindi insomma ha dato vita a un impianto che di pallacanestro ne ha vista purtroppo poca, ma che è lì a distanza di 15 km e non è vero che si gioca in campo neutro, perché sembra di essere al pianello. Naturalmente. Senti, siamo quasi in chiusura, allora a questo punto pronostichiamo. Milano, innanzitutto a partire dall'Eurolega, che è quella che offrirà i primi verdetti tra non molto. Milano a Real Madrid in casa la prossima, spalle al muro, ce la fa o no? Vince Milano. Vince Milano e passa? O è difficile? Io penso sia difficile il passaggio del turno di Milano, però con il Real Madrid la squadra reagirà e otterrà una bella vittoria. Siena? Siena passa, sono d'accordo con coach Peterson, col Kazan si sono un po' distratti. Impegno preso, sì, però un po' vedi, sono distrazioni che anche possono pesare, però Siena giocavano a Siena fino a qualche mese fa, beh, tanto lì non vinciamo, la diamo su, no? Invece adesso Varese arriva a due tiri dall'espugnare Siena, tre giorni dopo Kazan va lì e vince, insomma, a questo segnali. Punto segnali. Sono segnali. Cantù? Cantù, io faccio un grande tifo perché passi il turno, perché veramente a questa squadra alternativa, a questa squadra alternativa, vedere Mazzarino, vedere insomma Ortner che battaglia Nancy, Cinciarini playmaker, il vecchio Baso è lì per far canestro a tre punti, insomma Cantù speriamo possa fare questi colpi al Paladesio e approdare alle top 16. E per chiudere, ma tanto tornerebbe in prima, insomma, su questi schermi vedremo un padrone diverso per questo scudetto? Dipenderà molto dagli accoppiamenti in semifinale, perché tutti parliamo di chi vincerà, però io credo che alla fine Milano, Cantù e Siena arriveranno lì, e poi l'accoppiamento di semifinale potrà regalare una grandissima semifinale, togliere molte energie, mentre ci sarà una terza squadra che sarà, diciamo, più fresca e riposata, dovendo affrontare un avversario più comodo, quindi lì decisiva la volata finale. Senti, io faccio un gran tifo per te, però spero che, insomma, il lavoro lo trovi tra un po', cioè ti impegni in qualcosa tra un po', in modo che mi venga a trovare presto. No, prestissimo. Grazie Gian Maria Vacirca, grazie davvero. Grazie a voi. Franco Piantanida in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Torniamo domani pomeriggio alle 5, come tornerà finalmente dal suo viaggio Andrea Zorzi, poi domenica dalle 4:30 alle 7 e dalle 8:30 alle 9 il basket.